Storie italiane. Il gatto con gli stivali. In una terra lontana lontana viveva un mugnaio con i suoi tre figli. Il figlio più giovane, Marchese, era da sempre il suo preferito. Ma quando il mugnaio morì, lasciò in eredità il mulino al figlio maggiore, al suo secondo figlio lasciò un asino e al figlio più giovane un micio chiamato Gatto. I figli più grandi risero di lui e lasciarono al povero Marchese a farsi una vita propria. Era deluso e si chiese perché suo padre gli avesse lasciato un gatto. Oh, gatto, cosa devo fare con te? Non ho niente da mangiare. Non ho un mulino e neanche un asino. Come vivrò? Ad un tratto accadde qualcosa di magico che sbalordì il giovane Marchese. Non preoccuparti, mio padrone, io ti aiuterò. Gatto, puoi parlare? Un gatto che parla con me! Oh, posso fare molto di più! Padrone, dammi una borsa e un paio di stivali e ti mostrerò cosa riesco a fare! Il Marchese rimase stupito e si chiese come potesse una borsa e un paio di stivali essere d'aiuto al gatto. Ma vedendo che egli parlava, nutrì una forte speranza. Gatto, ti darò una borsa e un paio di stivali. Vediamo cosa riesci a fare! Marchese prese i suoi pochi spiccioli e andò da un calzolaio. Il calzolaio fu sorpreso di sentire quella bizzarra richiesta. Stivali per il tuo gatto? Sei sicuro? Sì, per cortesia. Gatto ricevette i suoi stivali e una grande borsa. Gatto, ora hai quello che mi hai chiesto. Che cosa intendi fare? Ecco, innanzitutto organizzo una cena. Gatto si recò in un posto dove sapeva di poter catturare dei conigli. Mise nella borsa un paio di carote e della lattuga e la lasciò aperta. Si nascose dietro ad un albero e attese. E ad un tratto un paio di conigli trovarono la borsa e si intrufolarono per mangiare il cibo. Gatto fece un balzo e chiuse velocemente la borsa. Li ho presi! Prese i conigli per Marchese. Ecco qui la cena! Gatto, sono dei conigli! Grazie! Cucinarono un pasto abbondante e ne avevano ancora abbastanza per il giorno successivo. Ma il giorno dopo Gatto non si riposò. Uscì di nuovo e prese altri conigli usando lo stesso trucco. Al suo ritorno decise di visitare il castello del re. Le guardie del castello però bloccarono il suo cammino. Lasciatemi entrare, vi prego, ho dei doni per il re. Non sarebbe felice di sapere che mi avete fermato? Un gatto che indossa gli stivali e parla. Questa è sicuramente una visita per il re, fallo passare. Gatto entrò dentro il castello e attraversò il lungo e sfarzoso corridoio. Giunse dinanzi al re, la regina e la principessa e quando parlò tutti furono sorpresi. Vostre maestà, il mio nome è Gatto. Io appartengo al mio signore, il marchese di Carabà. Vi porgo i suoi rispetti, donandovi questi conigli. Vi siano graditi. Oh, che gatto magico! Siamo lieti di conoscerti. Riferisci al tuo signore che accettiamo il suo dono ed apprezziamo il suo nobile gesto. Grazie, sua maestà. La principessa era stupita e osservava il gatto magico con i suoi stivali. Ti chiameremo Gatto con gli stivali. Prego, assicurati di far desinare il nostro ospite. Dagli il miglior latte e la crema che abbiamo. Prego, l'addetto del re, fece come gli fu ordinato e Gatto leccò tutta la crema felicemente e lasciò il castello. Gatto tornò da Marchese e gli raccontò tutto quello che era successo. Il gatto con gli stivali? Hai incontrato la famiglia reale! Dimmi, com'è la principessa? Oh, era bella come la ciotola di latte e crema che mi ha donato! Una voce dolce e un cuore gentile! Tu devi sposarla! Io? Posso essere il tuo padrone, ma non sono un principe! Un principe che ha un enorme castello la sposerà! Gatto non disse una parola, ma ogni giorno si recava al castello e regalava uno o due conigli al re. Molto presto si diffuse la notizia che il gatto con gli stivali era magico, attendente del suo signore e portava doni al re. Non molto lontano viveva un gigante in un enorme castello ed era così grande che superava anche il gigante stesso. Nessuno osava incrociare il suo cammino perché coloro che lo facevano finivano mangiati da lui. Ma Gatto era abbastanza coraggioso per fargli una visita. Bussò alla porta del castello e quando il gigante aprì la porta, rise nel vedere il gatto davanti a lui che indossava un paio di stivali. Che Che cos'è? Un gatto con gli stivali? Sono un gatto che parla, signore. Oh, tu parli. Un attimo. Tu sei il famoso gatto con gli stivali di cui tutti ne parlano. E tu, signore, sei il potente gigante, con poteri immensi e incredibili. E tutti ti temono. Il gigante era contento di conoscere la sua notorietà. Sei fortunato che non mangio i gatti. Vieni dentro. Gatto entrò nel castello e il gigante divertito si chiese perché fosse venuto. Perché sei qui? Volevo vedere i tuoi grandi poteri magici. Ho sentito che puoi trasformarti. Ma è vero? Certamente, è vero. Sono curioso. Mi piacerebbe vederti. Il gigante si trasformò in un leone enorme e potente. Ruggì e il povero gatto saltò dallo spavento. Tutto a posto, ti credo. Ritorna alle tue vere sembianze. Ora tu mi credi? Sì, sì, io ti credo. Davvero? Puoi trasformarti anche in un piccolo animaletto? Tu sei così grande. Posso trasformarmi in qualsiasi cosa. Ammirami. Il gigante si trasformò in un piccolo topo in un secondo. Gatto attendeva questo momento. Si chinò su di lui e lo mangiò velocemente. Ah, era un pasto pesante. Gatto uscì dal castello soddisfatto. Tutto andò come aveva previsto. Gatto tornò a casa dal suo padrone. Nessun coniglio oggi? Padrone, andiamo a fare un bagno nel fiume. Adesso? Certo, padrone, subito. Fidati. Marchese era confuso, ma seguì Gatto fino al fiume. Si tolse i vestiti ed entrò nel fiume per fare il bagno. Gatto prese rapidamente i vestiti e li nascose sotto una pietra. C'era un sentiero nei pressi dove passava la carrozza del re. Gatto sapeva che la famiglia del re prendeva questa strada una volta alla settimana. Attese che la carrozza si avvicinasse e cominciò ad urlare. Aiuto! Aiuto! La carrozza si fermò e il re si affacciò udendo una voce familiare. Gatto, che cosa stai facendo qui? Sua maestà, per favore, aiutate il mio signore, il marchese di Carabà. Stava nuotando nel fiume quando qualcuno ha rubato tutti i suoi abiti. Fa freddo e il mio signore prenderà un malore se qualcuno non lo aiuta. Guardie, scegliete il meglio tra i nostri vestiti e correte verso il marchese di Carabà. Su, forza, e assicuratevi che sia asciutto, vestito e tiepido. Le guardie si affrettarono a raggiungere il fiume con i vestiti reali e presto giunsero dal marchese assieme al gatto con gli stivali. Sembrava un vero principe vestito con abiti regali. La principessa si affacciò dal carro e il marchese la vide per la prima volta. Oh, il marchese di Carabà è un principe così bello! La principessa! È bella come la immaginavo! Marchese fu sorpreso da tanta bellezza e si inchinò dinanzi al re. Grazie per questa gentilezza, mio re. No, grazie a lei! È bello finalmente incontrarla, marchese di Carabà! Abbiamo apprezzato i suoi doni ogni singolo giorno. Abbiamo molto da raccontarci, ma prima torniamo a casa. Gatto, che stava osservando la scena, improvvisamente parlò al re. Vostra maestà, saremo lieti di ospitarvi nel grande castello del mio signore. D'accordo, marchese? Marchese guardò Gatto con stupore. Il nostro castello? Gatto annuì e sebbene marchese fosse confuso, decise di fidarsi ancora del gatto. Sì, vostra maestà. Vi do il benvenuto a desinare con noi al mio castello. Ottima idea! Bene, andiamo! Marchese entrò nella carrozza e il gatto corse davanti a loro. Stavano andando verso le terre che appartenevano al gigante. Il gigante aveva molti agricoltori che lavoravano nei campi e Gatto trovò gli agricoltori e li avvisò. Attenzione! Il re si avvicina! Se il re chiede chi possiede queste terre, dovete dire loro che appartengono al marchese di Carabà. Se non lo direte, il re vi taglierà la testa. Gli agricoltori avevano una grande paura e gli diedero subito ragione. La carrozza del re attraversò le lande coltivate. Il re osservò gli agricoltori che lavoravano e li chiamò a sé. A chi appartengono queste terre? Dimmi, per chi lavori? Per il marchese di Carabà, mio signore. Il re e la sua famiglia furono impressionati. Marchese di Carrabà. Sono delle terre meravigliose. Grazie, Sua Maestà. Mentre la carrozza raggiungeva il castello del gigante, Gatto era pronto ad accoglierli. Aveva preparato ogni cosa. Il re, la sua famiglia e il marchese scesero dalla carrozza e ammirarono il castello. Wow! Guarda che magnifico castello! Oh, hai ragione! Marchese presto capì che questo doveva essere il suo castello. Mio signore, benvenuto nel mio castello, dinastia dei Carrabà! Entrate e cenate con noi! Quel giorno Marchese e il gatto con gli stivali ospitarono la famiglia reale in un enorme tavolo pieno di prelibatezze. Gatto gestiva i servi del gigante. Essi servirono una cena fantastica per tutti. Il marchese e la principessa continuavano a guardarsi e così facevano il re e la regina. Sapevano che avevano trovato un uomo bello per la figlia. Il re parlava al marchese e rivolse parole importanti che egli non pensava di ricevere. Marchese di Carrabà, ti parlo da padre e non come un re. Vuoi sposare la mia amata figlia? Mio sovrano, sarebbe un grande desiderio per me. Il marchese e la principessa molto presto si sposarono e il figlio del mugnaio divenne un principe. Marchese fu finalmente grato a suo padre di avergli lasciato un gatto. Il gatto con gli stivali non doveva più andare a caccia di conigli. Visse felice con il principe e la principessa e godette di una vita reale nel castello.